La politica alla prova. Buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta dalla postazione di Radio 24 a Montecitorio. Mercoledì, giorno di question time qui alla Camera, interrogazioni dei deputati e risposte da parte del governo. In particolare oggi è stata la volta del ministro per l'integrazione Cécile Kyenge, che è tornata ad auspicare una riforma pur graduale dell'attuale disciplina della cittadinanza. E allora ai nostri ascoltatori chiediamo se questo può essere un approccio giusto per il nodo della cittadinanza, oppure se servono tempi più veloci, o se siete proprio contrari alla modifica dell'attuale legislazione. 349-238-6666 per i vostri SMS. Ma sentiamo allora cosa ha detto il ministro Cécile Kyenge. È opportuno almeno riconsiderare a legislazione vigente il tema della cittadinanza in un'ottica di semplificazione delle procedure. Una riforma della cittadinanza in tal senso rappresenta un'esigenza concreta, diffusa, indifferibile e al tempo stesso una possibilità di crescita per l'Italia. All'inizio di questa legislatura sono stati già presentati numerose proposte di legge sulla cittadinanza da esponenti di varie forze politiche. Come ho avuto modo di affermare in questi giorni, ritengo che una modifica dell'attuale normativa possa avvenire in un quadro di graduale positivo e apertura a confronto con tutte le forze politiche. Il mio contributo sarà in linea con gli indirizzi concordati a livello di governo, d'intesa con il Ministero dell'Interno e con il Ministro della Giustizia e nell'ambito delle competenze che mi saranno delegate dal Presidente del Consiglio. Confido che il Parlamento inizi a breve ad affrontare la riforma della cittadinanza, avendo cura di trovare adeguate soluzioni ai molteplici aspetti della vicenda. La questione del vivere insieme tra persone differenti assume una diversa fisionomia in relazione alle diverse sensibilità, ma non ci si può sottrarre a una riflessione profonda sui diritti di coloro che vivono e lavorano in questo Paese, aderendo ai principi e ai valori della nostra Costituzione. Auspico pertanto che il costruttivo confronto tra le forze politiche presenti in Parlamento possa dare risposte concrete alle loro legittime aspettative e come Ministro per l'integrazione intendo suggerire con particolare attenzione i lavori parlamentari. Queste dunque le parole del ministro Cécile Kyenge, che propone la via parlamentare logicamente per modificare l'eventuale legislazione sulla cittadinanza, e ricorda a tutti serve una riflessione perché la tematica è presente nel nostro paese. Ricordo che trasmettiamo qui dalla postazione di Radio 24 a Montecitorio, quindi una gradualità nella modifica della legge secondo il ministro, ma non la pensa così La Russa di Fratelli d'Italia. Sentiamo. Io prima di tutto vorrei parlare del ministro Kyenge, che trovo una persona squisita, laureata in, mi dicono che è una delle oculiste più affermate. Non ho ancora capito invece che competenza abbia in materia di integrazione. Non vorrei che l'avessero fatta ministra per il colore della pelle, sarebbe quanto di più razzista questo governo potrebbe immaginare. Anzi, propongo che vada a fare il ministro della sanità al posto della Lorenzin, che magari è più adatta di lei a occuparsi di integrazione, perché forse, avendo vissuto nell'ambiente politico, conosce di più i problemi. Ripeto, a meno che non sia ministro per motivi di pelle, ma sarebbe la cosa oscena, orribile dal punto di vista razzistico, spero proprio che non sia così. Detto questo, credo proprio che questa inadeguatezza a questo ruolo del ministro l'abbia portata a far precipitare un po' il dibattito. Il dibattito sulla cittadinanza c'è da tanto tempo, ha dovuto già fare un po' di marcia indietro a dire che no, lei sì, lo Ius Soli, però lo vuole correggere. Allora, lo Ius Soli significa far arrivare, questa è la posizione di Fratelli d'Italia, nel nostro territorio le partorienti clandestine da ogni parte del mondo. Sarebbe il ventre molle d'Europa se noi, quasi unico paese in Europa, applicassimo la legge che basta nascere in Italia per essere italiani. Ho già detto da sempre che siamo pronti invece a discutere, lo eravamo in Alleanza Nazionale, lo eravamo nel PDL, io personalmente lo sono in Fratelli d'Italia, a discutere la posizione dei bambini nati in Italia da genitori stranieri regolarmente presenti in Italia che abbiano superato la scuola dell'obbligo. Quando uno supera la scuola dell'obbligo vuol dire che si è già confrontato con la lingua italiana, con la nostra storia, con l'integrazione naturale che avviene con gli altri bambini. A quel punto anticipando di qualche anno l'attuale normativa, che comunque gliene darebbe diritto a 18 anni, può anche diventare cittadino italiano, o perlomeno ne possiamo discutere. Ogni altro tipo di argomento finisce, anziché per aiutare, per peggiorare la situazione soggettiva di coloro che oggi aspirano a diventare italiani. Scuola dell'obbligo dunque come requisito minimo per la russa di Fratelli d'Italia, non lo ius soli dunque, non quindi la cittadinanza solo per chi è nato in Italia. Invece un nostro ascoltatore Claudio ci scrive ius soli subito, ma questo è un tema che vedo che vi divide molto, nessuna riforma, scrive Marco. Poi c'è un altro messaggio che però è un'offesa e non leggo, contrario al razzismo, ma adesso basta con questa storia che tutti hanno diritto di cittadinanza, non siamo la spazzatura del mondo, addirittura scrive un nostro ascoltatore. Sono Mauro, uno straniero e i figli di esso è uno straniero per sempre. Ecco, vediamo quindi degli sms molto distanti tra loro. Ma cambiamo adesso argomento, veniamo al tema delle intercettazioni. Il PDL rispolvera il DDL Alfano per rilanciare la sua battaglia sulle intercettazioni. Il capogruppo in Commissione Giustizia Costa ha depositato una proposta di legge che riprende per intero il cosiddetto testo Alfano contro l'abuso delle intercettazioni, e Costa esclude che ci sia un legame politico con la richiesta per l'autorizzazione all'ascolto di conversazioni telefoniche per Verdini, Cosentino e Dell'Utri, arrivata oggi alla Giunta per le autorizzazioni. Vi lascio immaginare le reazioni del centrosinistra. Capitolo riforme, il 29 maggio riprenderà l'avvio alla Camera e in tempi ravvicinati anche al Senato del dibattito sulle riforme istituzionali, a partire dalla bozza che il governo ha messo a punto nel vertice di domenica e lunedì. Lo annuncia il ministro per i rapporti con il Parlamento Franceschini. Ascoltiamo Franceschini. Nelle due Camere partirà un dibattito che deve portare al percorso, io spero definitivo, di riforma delle istituzioni. Può sembrare ai cittadini un tema astratto in mezzo a tutte le emergenze del Paese, ma un sistema che non funziona, che porta alla lentezza e alla paralisi, costa concretamente ad ogni cittadino italiano. E quindi sono tanti anni, veniamo da 30 anni di tentativi di riforme costituzionali che non sono mai arrivate in porto. Il governo si vuole fare parte attiva nel pieno rispetto della sovranità parlamentare e del coinvolgimento delle forze non solo di maggioranza ma di opposizione, per arrivare a cambiare il nostro sistema, a renderlo più moderno, più efficiente, più al passo con i tempi. E deve decidere il Parlamento. Il governo ha fatto una proposta nel seminario di Spineto che porterà all'attenzione dei gruppi parlamentari, che prevede che da un lato costituzionalisti esperti, le migliori intelligenze del Paese, supportino il governo nella sua proposta, e dall'altro lato il Parlamento decida un percorso con dei tempi certi e che consentano di cambiare sia la legge elettorale che superare il bicameralismo e dare una forma di governo più efficiente al nostro Paese. E abbiamo sentito il ministro Franceschini, lascia al Parlamento la priorità per l'ordine delle riforme, mentre per Pisicchio di Scelta Civica è necessario partire dalla legge elettorale. Ascoltiamo Pisicchio. Intanto si è constatato che il percorso non può non essere di tipo parlamentare, perché quale che possa essere l'idea che regge il percorso riformatore, al Parlamento bisogna fare riferimento. Quindi il 28 e 29 si farà un dibattito parlamentare che con ogni probabilità si chiuderà con un atto di indirizzo che metterà nel conto l'indicazione fondamentale sul percorso delle riforme. Mi pare evidente, non è che esistano tante strade. La strada parlamentare prevede la procedura del 138, dell'articolo 138 della Costituzione, che prevede dunque una doppia lettura Camera e Senato per l'approvazione dei provvedimenti. Questo può essere fatto con una commissione bicamerale o può essere fatto con le commissioni affari costituzionali della Camera e del Senato. Quindi il perno di tutta questa vicenda si chiama Parlamento. Così Pisicchio di Scelta Civica, la politica alla prova termina qui. Un saluto da Vincenzo Miglietta.